tradir ti vuoi? In quale vivo giungemmo, ove sia noi? In sero, amico, sventolato sei tu. Quai detti, io tremo. A quartiero, lo frego. E senti brevo. O mio secondo padre, mio saggio istitutor, tu in queste spoglie, in si povero tempo, a te perduto ogni bene io perdei. Qui tristo e solo, a pianger vivo, la tua morta fama, la tua vergogna e la tua casa in fondo. E tu? Di mia vendetta pieno il mondo, ma in darno il vile Ernesto, il mio persecutore, vive ed esulta dell'ingiusto mio bando e di mie pene. Ma di che fai mogere, mi è fida ancora, ed ogni nodo è sciolta. Misero, contessa, rispondi. Non chiedere. Come? E dici? Sì, ti fiorò torteruoto. Thank you. Agostina lasciammo all'alba, a Palermo volte eran le nostre vene. A Palermo, sul costo mar crudele, campo d'orribile guerra, nostro re quel mar. C'era. Occorse di quei piroviocà. Essi fur vinti, spersi, distrutti. E il tuo Oh! s'appressò. sia tolto. S'accresce il mio terror se più l'ascolto. Poiché d'alcuna ita giovarti non mi dice, un giorno, figlia, che vedrò

m'abbraccia, o donna, e vecchio di messa, afflitta tanto, troveranno i prati la consorte del duca. Al mio trionfo, al prendi parte. Una parte inmesa allegri o sono, altro non legge, o negro, l'acqua te no. E da quel punto il sai. Tristo è il tuo stato, e me palese assai. Lasciarti io spero. Il traditore gualtiero fugge sconfitto, né che più risorga nuova guerra e ancor mi sfidi, io temo. Thank you. ci guarda la mia vendetta.

la sposa a lui parlò. Bella sposa, oh. Ernesto, offrirmi a lui del Gio. Pronto è l'acciaro, la vibro. Se non mi segui, oh, che detto? Due navi mi raggiunser de miei, pugnar possio, turvo fuggì. Ma il crudele e i provi Yeah. Yeah. la sua